anche magari già usciti proprio di, dal mercato nel 2010, e roba carina c'era. E vabbè, d'altronde non si vive solo il baracchino, no? Quello che c'ha Fabio, quel baracchino Wagner, quello è un grandissimo apparato, nel senso bellissimo, c'ha una linea da paura. L'ho visto, quello è ancora più proprio vintage, diciamo. Poi vabbè, mi collega, vabbè, altri video, questo è un Ampero, ormai sentito, TS3010. Chissà anche di che nazionalità sono questi apparati. Certi apparecchi sono solo per certi mercati, poi americano, asiatico, boh. Non l'ho mai vista da noi, mai vista. Sì, ma possono essere sicuramente per mercati sicuramente giapponesi, perché ho visto, ci sono un sacco di scritte, credo giapponese, non cinese, perché i cinesi non credo che li possano fare utilizzare i baracchini, sarebbe controproducente per il regime, non credo che esistano cibi a coso in Cina e tantomeno in Corea. Robe, ma tu te le ricordi? Adesso io in Giappone non so se abbiano cambiato le cose o se siano pirati quelli che fanno di ex. Io mi ricordo gli apparecchi omologati di un certo lasso di tempo. Erano 8 canali, 500 milliwatt, antenna fissa. Marca Sony, Panasonic, roba mai vista, ma credo che sia roba anni 80 o 90. E ti dico che comunque per l'epoca erano abbastanza d'aspetto sofisticati, nel loro piccolo, diciamo. E una particolarità è che mi pare che in prossimità dell'estremità dell'antenna telescopica ci doveva essere, non so se addirittura per legge giapponese, una specie di contrassegno arancione per far capire che era roba della banda CB. Guarda, se trovo il link te lo segnalo, è che non te lo posso mandare fisicamente, cavolo, vabbè, lo manda Luca e te lo gira a te. No, ma prima erano molto restrittive di lì. L'Italia, da quel punto di vista, a parte gli Stati Uniti, va bene che è il paese al mondo dove c'è stata una maggiore penetrazione di CB, di banda cittadina, di apparati. Poi hanno costruito, se lo sapete, la Midland, non mi ricordo se a Reggio Emilia o Ferrara, non mi ricordo dove, c'è la sede di produttiva, perché la Midland è americana, è nata, mi sembra, nel 1959, qualcosa del genere, ne ha riempito tutto il mondo, e poi ne ha riempito una fabbrica in Italia ancora operativa per il mercato europeo, perché in Italia adesso magari molto di meno, ma 20 anni fa, 30 anni fa era pieno di CB da tutte le parti. Break. Avanti, break. Buonasera a tutti, doppio lui. Ho detto, vabbè, questo Wagner con le stazioni base. È una stazione base veramente bello, grande apparato. Ah, sta cercando sul 5 elettronica che non mi apre la pagina, c'è però non mi apre la pagina. Ma c'è tra 5 elettronica? Perché lì Wagner, vedo Wagner 595, mi pare una cosa del genere. Ma tu se non c'hai internet, su internet scrivi Wagner, CB Wagner 510 mi pare che sia il modello. Io sono entrato su internet e mi hanno messo vendo Wagner, eccetera. Io ho messo baracchino Wagner CB, ecco, e mi ha dato questo qua, mi ha dato 5 elettronica e c'era uno che lo vendeva, però non mi apre la pagina. No, ma tu non scrivere così, tu scrivi CB base Wagner, mi sembra sia 510 o 5101, boh, una cosa, già ti appare subito. Ce ne sono una marea, ne fa questa Wagner, io non la conosco questa Wagner. La cosa più bella di quell'apparato è che centralmente c'ha il clarifer e c'è un'altra scala in mezzo, graduata a rotonda dentro, con un anello, e ti appare lo spostamento del clarifer. Ma veramente è bello, proprio veramente lo fa uguale identico alla Roadstar, però versione dorata lo fa. Sì, molto bello, sembrava un VFO il clarifier. E quello Roadstar carino, anche in versione chiara, sì. Lo conosci tu quell'apparato, Marco? Visto, l'avevo visto in qualche foto, però il coso mio è che se non sono in alta definizione non le scarico. Se sono, sai, di pochi pixel non le scarico, perché magari non si vede perfettamente bene. Comunque sì, ne ho visto un po' un po' di varianti, dai. Sì, sì, so farlo diversi modelli, diciamo diverse case, però l'apparato è sempre quello lì, non cambia niente, si possono fare qualche lucetta diversa, qualche tastino magari di forma diversa, ma è quello lì. Ok, la Roadster è un marchio svizzero, probabilmente lo fanno su licenza in Svizzera. È sempre della linea del Galaxy, molto bello, sì, mi piace, bellino, c'è dorato e argentato. Quello dorato e quello della Roadster, c'è anche il video della prova su internet, ce ne sono più di uno. Io non ho mai sentito questa marca. No, neanche io ho mai sentita. Sinceramente, non so neanche Wagner di origine, cos'è, austriaco o tedesco? No, non lo so, non te lo so dire. Non lo conoscevo proprio come apparato, di solito le state in fase io me le guardo. Ma non lo conoscevo, non l'avevo mai visto. Sì, la linea più o meno è quella del Galaxy, dai, manca frequentina in provincia. Ma ci sono dei baracchini adesso per dire, cosa, Walter, mi ha detto che lui il baracchino più grande che c'ha è questo tram, non so se lo conoscete, mai sentito il marchio, l'ho cercato su internet, il tram è un marchio abbastanza conosciuto, ce ne sono una marea di apparati. C'è anche Marco Scorso il tram. Sì, sì, infatti mi ha mandato le foto Marco quest'altro giorno, quando abbiamo avuto una discussione di apparati, mi ha detto, guardati qui, anche lui c'ha bellissimi apparati, più selezionati, magari più selettivi rispetto a quelli di Walter, proprio c'è una collezione variegata, nel senso ne ha centinaia, mentre vale, Marco magari se ne prende 20-30, si tiene quelli che gli interessano e boh, tutti stazioni base suoi sono quelli di Marco, la maggior parte. Sì, sì. Sempre belle cose, sia uno che l'altro, sia in tutti i sensi, sia apparati radioamatoriali che apparati CB. Ce n'è un altro CB, non so se l'avete visto, non mi ricordo il modello, che è una cosa allo stesso spettacolare, risulta, e c'è un, per dire, un frontale, un pannello frontale, poi sotto, in terra, diciamo fatto a L questo coso, visto di frontale, c'è una base sotto con tutte le funzioni, il volume eccetera, e sopra c'ha tutti i tastini, orologio, smitter eccetera, mentre sotto c'ha, infatti il microfono attacca nella base. Ma cosa c'ha? No, no, non mi sto spiegando. Allora, tu stai prendendo, prendi un Saturnecco, c'hai il frontale del Saturnecco con tutte le funzioni, poi sotto c'hai un prolungamento nel piano di sotto, leggermente inclinato, e lì ci sono le altre funzioni, c'è eco, Mickey Gain, eccetera, eccetera, tutti i controlli. Ah, sì, l'ho visto a casa di Franco con l'apparato, quello lì è... Aspetta, cos'era? Forse era un Cobra. Un Cobra, ecco. Cobra? È Cobra. Stava parlando di una stazione base. Esatto, sì, sì, altre basi. È un base. Ha una forma strana, roba, ho capito. C'ha frontale più la parte di sotto, dove ci sono tutti le manopoline. Sì, sì, è quello che c'aveva Franco California, ma so se ce l'ha ancora. Ce l'ha Franco, quello lì. Addirittura quello è un apparato diciamo non molto frequente, bello. E poi l'altro giorno ho visto un Midland mai visto, una cosa da paura, spettacolare, bello proprio, mai visto. Dove l'hai visto? Su internet. Su internet, e poi me l'aveva fatto vedere uno, un Riccardino, vabbè, l'avevo visto tempo fa, tipo un genere come quello che stiamo dicendo noi, già è nella base, c'è la cornetta telefonica, che sollevi la cornetta e c'è il PTT e poi parla, c'ha il parlascolto. L'avevamo anche noi dove facevo servizio ambulanti, c'era il tastino, hai visto, tra il parlascolta c'è il tastino, dove c'è proprio diciamo il sostegno che tiene le colonnine, c'è quello per ascoltare che per parlare, lì c'è il tastino, schiacci e c'è la portata. Sì, questo è proprio un telefono di quelli antichi con le cornette, e in alto c'è l'altoparlante e sotto c'è il microfono, tu schiacci il TTT e parli. Sì, sì, la usavamo anche nell'Land Rover noi, quella lì, l'antici. Vabbè, ma il vostro era duplex, quello non c'era bisogno di parlare col PCT. No, col PCT parlavamo, schiacciavi parlare. Addirittura, no, pensavo, perché avevano la pulizia, parliamo negli anni, fino agli anni 70 erano duplex. Noi avevamo praticamente la prima macchina che ci hanno dato per l'antincendio, era dei carabinieri, ci aveva il faro sopra, tutto quanto. E quella dei carabinieri non l'abbiamo, solo fatta di diverso colore perché non potevamo tenerla col colore dei carabinieri, e abbiamo cambiato il colore, l'abbiamo rifatto il motore, tutto fatto, tutta la Jeep che usava i carabinieri. E avevamo messo quel telefono lì, capito, perché era più figo, sembrava tutta la macchina del carabinieri. Ok, vediamo un pochettino che è rimasto qua sul canale 10, avanti che vuole entrare. Non c'è nessuno. Allora, Natalino sei sempre in ascolto. Natalino non c'è. Luca, ci sei ancora? No, ci dovremmo ancora. Buonasera. Aspetta, scusate un attimino, riepiloghiamo. Allora, c'è Roberto da questa parte. Luca che era in ascolto sino a poco fa, Marco e Gianni e Natalino. Vediamo un pochettino riepilogare, avanti Natalino e poi facciamo girare chi è entrato. Nulla. Chi è entrato allora? Avanti. Ciao Roberto, ciao Gianni e a voi vi buon ascolto. Ciao Tony, ben sentito. Vai Gianni. Ciao Tonino, ben sentito. Avanti. A chi tocca? A Marco, avanti. Ciao Tonino, ben sentito, ben entrato. Allora Robè, niente da fare, anche volendoti linkare gli apparecchi hanno, del forum hanno rimosso, cioè ogni tanto cambiano qualcosa, sparite le foto, spariti i collegamenti, niente, sparito tutto. E quegli apparecchi non te li so definire, sembravano come dei semi portatili, sai quelli spalleggiabili, no? E sembravano come delle autoradio. Sony, Panasonic, quelle marche lì, forse anche Aiba, e lo smitterino a lancetta, e ho visto addirittura video di giapponesi facendo DX con mezzo watt, cioè, poveri loro, peggio dell'Italia. Ok, dai, io rilancio Torino e vado a mettere il telefono in carica, ok? Vai Torino. Ok, ciao Marco. Ma mi stavo ascoltando poco fa, Robè, il fatto della cornetta. Guarda che anche negli anni 80 c'eravamo noi in macchina, il baracchino, con la cornetta, cioè c'è il pulsante a parlare come un telefono normale. Sì, però non era duplex, nel senso c'aveva il PTT però. Era normale, cioè non era duplex, però parlava con la cornetta di telefono. Sì, infatti me ne stava facendo vedere uno di casino che lo volevano acquistare, però ho detto sì, è una cosa interessante, ma se devi fare collezionismo, perché per usare sinceramente sono tra l'altro a 23 canali mi sembra, forse neanche, forse 16 canali, ho detto, e poi alla fine ho detto qua non è che lo usi più di tanto, costava anche un pochettino, anche se è sempre un investimento, magari tra 20 anni sarà sempre più raro. Ok, poi c'era, non so se vi ricordate, l'autoradio proprio, che c'aveva l'autoradio e l'FM eccetera, e potevi collegare il microfono, lo usavi come baracchino la stessa autoradio. Vabbè, non ti ho seguito, cosa vuoi 16 canali, 13 canali? Una cornetta normale, invece aveva il tastino, te l'ho detto, tra l'auricolare e l'altoparlante per parlare, c'era lì un tastino, lo schiacciavi e parlavi, non c'era nessun canale. Allora c'era il filo che usciva dalla cornetta, andava all'attacco che va al baracchino, normalissimo. Ho capito, l'ho solo visto, però quello che si voleva prendere il Riccardino non era neanche 40 canali, c'era soltanto la M, era un baracchino semplice e la cornetta era utilizzata per ascoltare la parte superiore e per parlare il microfono la parte inferiore, e c'era il PTT, però siccome l'apparato ne volevano anche un po' di soldini, ho detto cosa devi fare, un baracchino 16 canali, mi sembra che era 16 canali, neanche 23, ho detto cosa te ne fai, non lo puoi neanche utilizzare qua, perché ho detto molte volte te ne vai sul 20 e non funziona neanche. Quando si pensa, non ho dotato su un baracchino che fa pochi canali, non ne vale la pena. È solo per collezionismo, infatti, una cosa pratica. No, a quello che ho detto, non so se vi ricordate, proprio l'autoradio col volume, come la classica autoradio con l'FM, e in più c'aveva l'attacco per il microfono, inserito all'interno dell'autoradio c'era il baracchino, qualche canale, adesso non so se aveva 3 canali o 10, non lo so. Ok, poi mi ricordo tempo fa, sarò sempre gli anni 70-80, canale 9 si usava il canale emergenza, canale 1 era Paranautica. e noi parlavamo lo stesso volentieri sul 15 e 5 c'erano i camionisti. A proposito, volevo fare un annuncio, dato che è ancora il microfono. Sappiate una cosa, che io sto cercando qualche altra stazione fissa, 1, 2, 3, 4, 5, baracchino, non ho problemi. Perché voglio completarmi e fare una specie di museo. Non me ne frega niente se baracchino è vicino quello che è. Stai cercando stazione in base? Roger. Vabbè, se dovesse capitare ti faccio sapere. Anche a me solo stazione in base, non piacciono i veicolari. Sì, Saturnecco, però modificato. C'ha le modifiche con le... camera Echo, Echo Colt, i canali, eccetera, eccetera. No, non mi interessa. Allora, sappi una cosa, se io voglio fare quello che sto pensando di fare, è inutile che io ho una 500 e mi compro un'altra 500, come posso usare? Uno deve essere diverso dall'altro. Guarda che ce l'ho già, non mi frega niente. A parte che una Ferrari in gara si dovrà una 500, non fare questi paragoni. 500 può essere una 48, ma non un Galaxy. Ce l'ho uguale già, cavolo, nel senso ho fatto un paragone, capito? Può essere Ferrari, può essere un diamante, un topazio, non me ne frega niente. Ma da chi è diversi, giustamente? Un Inter che non c'è una stazione fissa, io c'ho un Pace vecchio, stazione fissa, valvolare, antico, ecco, mi piace. Accende sto quanto, fa un po' di alternanza, non me ne appunto, non c'è mica modulare, se me ne frega a me. Però diciamo, come collezione, cosa mi piace fare questa collezione qua? Meraviglia, la propagazione è iniziata, ti stavano quasi sovramodulando, questi sono in FM, sono forse, vediamo chi avanza. Chi fa la laterale? No, mi sembra FM, sono tedeschi di FM. Siamo tutti qua se ne vengono, non erano altri canali. Stavo dicendo, Tony, basta che tu vai su subito.it, viene dato di voi. Ci proviamo a andare, io ho detto a voi giustamente che sono effettuata, se sentite qualche cosa mi fate una comunicazione, non c'è problema. Io, va bene, non c'è problema. Gianni, avevi telefonato da Fusaro per la PLC, c'era arrivata? No, non ho telefonato, mi sono dimenticato, perché poi mi hanno chiamato al telefono e mi sono dimenticato di chiamare a Fusaro, ecco cosa dovevo fare. Ehi, perché? Scusate, vado un attimo. No, perché appunto quella base è adatta a quella, proprio quella della LEM. Invece quella che ti avevo mandato io è un bel lungo sotto l'attacco. Troppo lungo, ti dirò. Oh, vabbè. Infatti bisogna stare attenti anche scegliendo la base magnetica. Quelle cosiddette universali poi non sono tutte universali. Certe hanno il centrotetto sotto piatto, proprio piatto, certi ce l'hanno un bel lungo. Come quello che ho mandato, va bene, comunque già ce ne attende, già Sirio, Midland, all'imbarazzo della scelta, anche nera la trovi come lo vuoi tu, in tinta con la macchina. Vai Roberto. Cacava pure un'antenna in tinta, viso. Ci sono la bandiera americana, le ho viste. Certo che ci sono, vabbè, perché la fusta nera non è nera. Sì, no, ce lo so, ho visto anche la Turbo con la bandiera americana, Yankee e tutto quanto, ma dico, uno me ne ha fottuto, se devo mettere l'antenna me la metto, l'importante è che funziona, non ando il colore. Vabbè, quello è sempre una questione di gusti, se apre il gardinino ti avrà bisogno. I camionisti si mettono con le antenne enormi, cos'è quella più grossa della Turbo, quella che c'ha il piantone, cacchio, quanto una, un'ananas gigantesca, quanto una lattina di Coca-Cola, che c'è la cosa americana, la bandiera americana. C'è la 5000. Wilson, sì, la Wilson 5000 forse. Sì, ma robè, anche di peggio, quelle con quel mollone enorme alla base, io ho visto cose folli in America. Io ho visto usare talmente tanti watt, sai quelli del, come si chiama, Super Bowl, no, quelli che fanno Bluetooth, li senti dall'America, e come questo trasmetteva, scoccava la scintilla per un istante, spac, dall'antenna a una ringhiera che c'era a fianco, una cosa incredibile, roba da rimanere fulminati. Che poi credo che non ne sia più trasmissione, cioè quello non è nemmeno un DX, quello è RF buttata fuori per fare mondezza, non so cosa serve. In America a livello di baracchini no, non penso ci siano dei uguali di pazzi da legare con potenze, antenne da fantascienza. Si sa che gli americani hanno la mania della grandezza di tutte le cose. Eia, Le macchine, porca miseria, sono belle, solo che loro anche hanno le strade adatte a quelle macchine. Noi, queste sono le stradine nostre, come guidare il tram, il pullman, l'autobus. Lo so, loro adeguano sempre le cose alla loro città normale. Vabbè, allora, ci sono macchine bellissime in America, anche quelle vintage sono belle, ci sono certi macchinoni. Guarda che ce l'ha la banca, ce l'ha la banca. Gianni Cocomane. Fai lo zoom. Guarda che... Dai, dai, facciamo girarlo. Facciamo girare, dai, passa a me, che passa Robè, fumi. Dai, ce lo sto girando io, passa Robè, trova Robè. Vedi che è abituato, che Cocomane. No, per la nostra salute, scusa, io rilancio Roberto, ha vietato la vendita di tutti i tipi di sigarette al mentolo e simili, per la nostra salute, perché le sigarette non fanno male, no, capito? Vai Roberto. No, già non fumo, chi è che fuma di voi? Io no. No, io no. No, ma capisci, scusa un attimo. Vado? Vai, va. Cioè, ti spiego, io non fumo, però, cioè, fumo con la bocca, non con i polmoni, no. Il catrame nei polmoni non ne voglio, però mi piaceva sentire il sapore di una sigaretta al mentolo, per dire, no. Cioè, a chi piace, no, l'Europa, per tutelare probabilmente la nostra salute, perché c'è la storia che il mentolo è data più bronchi, quindi il catrame arriva più in fondo, no? Quindi lo fanno per la nostra salute, no, per il nostro bene. Ecco, allora perché non vietano le sigarette? Che si sa come va a finire, no? Questa Europa alla fine si sta allargando un po' troppo, il formaggio con i vermi non va bene, quindi vietato tutto, devi andare dal pastore, peraltro come si faceva già prima, e ordinartelo privatamente anche di soppiatto. E vai Robè. Sì. Basta ricordarci della fettina alla fiorentina, dello zimino, a Puglia, viene solo di cose che secondo loro non vanno bene. Sto liberalizzato adesso. Poi la frutta anche, Gianni, la frutta, cioè più di tanto non puoi produrre, devi per forza comprarlo dagli altri paesi e ci devi buttare magari la roba che è nella tua regione o non la puoi vendere. Questi sono matti, questi sono matti davvero. E il latte non è la stessa cosa. Sono matti davvero questi qua, non lo so. Grazie Prodi, grazie. Gli manderemo qualche maledizione. Vabbè dai, non voglio che... Riprendete voi, io adesso vado a vedermi la TV che sono cotto, tra virgolette, no, non bevuto, cotto dalla stanchezza. Invece di premiare per la produzione, ti multano se produci più latte di tanto. Eia, ah Robè, stasera nel pomeriggio, vabbè tu starebbe lavorando, hanno fatto Nell'anno del Signore con Manfredi, anche quello mi era piaciuto un sacco. Ieri proprio c'era un servizio, scusa il monopolio, Tony puoi riprendi tu, un servizio al Canale 5 proprio su Manfredi, non so se stavano festeggiando, commemorando la data della morte o non lo so, o i 100 anni della nascita, non lo so, qualcosa, hanno fatto vedere un po' di film che tra l'altro neanche conoscevo di Manfredi, di film che ha preso dei premi importanti. Ok, vai Tonino, prendi il mic. Ok, grazie. Ma io, tornando al discorso poco fa, sono già alla berretta da 5 anni da aprile che ho fatto, che non fumo più, e mi sento meglio. Cappa, bravo, hai fatto un buon passo, io sono 10 anni. Oh, io la pensavo in un certo modo, no? Tony, quando, che so, io da non fumatore, quando ho cominciato a fare le limitazioni, io facevo questo paragone, tipo nel bar non puoi fumare, ho detto, ma se in un bar ci sono 9 fumatori e un non fumatore, perché ci devono perdere 9 per accontentarne uno? Di solito la maggioranza vince, no? Da non fumatore questo lo dico, invece dice per la salute, il fumo passivo, ma allora abolite le sigarette se fanno male. Però ci guadagnano troppo, capito? Non lo faranno mai, non lo faranno mai. Vai Tony, detto questo dai, mi rimango in quel X definitivo, oppure quel T, dai, mi accendo un po' di TV, poi se non mi piace quello che c'è in TV vi ascolto, vai Tony. Ok, se vuole entrare siamo qua, non c'è problema, comunque buon X e fa se in effetti il fumo uccide quello per l'altro, però non lo vetro, perché loro incassano miliardi sulle sigarette, capito? Quindi, allora dovrebbe dare anche libera vendita al pistole, scusa, soltanto le sigarette. Non ho capito, avanti Roberto. Troppi giri di soldi ci sono, basta vedere che quando c'era il coronavirus i tabacchini li hanno tenuti aperti, per cui qualche cosa di guadagno già c'è la lotta. Una volta mi ricordo che Tonino era in piazza, c'era un complesso e lui fumava allora, io ero dietro di lui, non si è accorto manco che c'ero. E questa signora gli ha detto, scusi, era un po' spegnere la sigaretta e mi sta dando fastidio. Signora, se mi dà fastidio sia lontano, qua siamo all'aperto, posso fumare. Era verità. Non mi ricordo il particolare. Ma voi lo ricordate prima al cinema, quando si fumava, la camera su una cosa, mamma mia. Sì, in discoteca. A me bruciavano gli occhi in discoteca dal fumo che c'era. E la roba tutta impregnata di fumo, tutti rossi. E la roba è impregnata di fumo, cara. Sì, ogni avviato, quando torno a casa contava la roba tutto lei. E ricordo che un motore con la pelliccia bianca a prendere in discoteca con la pelliccia dettata gialla, si era già lavato. Sì, ma stava lavando, anche tu si esagerava. No, mi ha fatto schifo. Poi si attacca da tutte le parti. Io mi ricordo un amico che fumava molto in macchina, che piaceva tutta la macchina, un giorno l'ha portata la lavaggista e ha detto, oh, qua ci ho messo un prodotto particolare per pulire tutta questa roba, non vedi questa roba, ma questa roba arriva tutta nei polmoni, lasci stare la sigaretta. E comunque fa male, dai. Io lo stesso ho fumato per tanti anni, poi c'è stato un qualcosa per lo spavento che poi non era la sigaretta, ma l'ha ballata lo stesso, ce l'ho fatta, dai. Io ci provavo 2 o 3 volte, ci ho provato, non ci riuscivo mai, e c'è stato questo piccolo problema, cioè grande problema, dai, ma non è stato dovuto dalla sigaretta, perché non l'avevo fatto per lo spavare, però io lo spavento che ho preso finisce. E vabbè, ma le artesi in casa, no, è con la sigaretta, non è, ha contribuito anche quello, non possono aver detto che non era solo la sigaretta, perché le artesi con la sigaretta la nicotina ti casa le artesi. No, allora ti spiego cosa ho avuto, io mi sono scoperto il cardiaco e ti spiego cosa è successo, perché mi ha entrato la sonda al braccio o te lo posso entrare dal linguine fino al cuore, io vedevo tutto quanto, mi ha detto lei fumava, ho detto sì, comprimiti, c'è l'artiglia pulitissima. Allora, avevo avuto lo scompenso cardiaco, non per l'artiglia, ti spiego cosa è successo, mi hanno trovato del liquido nei polmoni che io non ho capito come ho preso questo liquido nei polmoni, non lo so, forse ho preso qualche cosa nel sotto, comunque. E tanto dopo questo liquido polmone mi comprimeva un polmone. Comprimente un polmone che diciamo praticamente occupava un pezzo, un quarto di un del cuore. E quindi automaticamente ci soffrivo. Io quando facevo 2 passi è come che ho fatto 6 chilometri correndo a manetta. Pensa, 2 passi a piedi. Mi giravo nel letto e ero vero affanno. Ma stiamo scherzando, alla fine non ce l'ho fatta più dopo la settimana, sono posto nemmeno il comando d'urgenza. Ecco, già, non è il fatto delle arterie che avevo intasato della nicotina, no, perché mi ha detto chiaro e tondo, non era sigaretta, però io lo spavento che ho preso, se la sono appata, non fumo più e così ho fatto, tant'è vero che mio figlio tu va dice all'ospedale, tu fumi di nuovo, ecco ci giochiamo, quando mi sono messo in testa una cosa già, poi. Eppure sono momenti sono testato, e anche io dopo che ho avuto il diabete ho mollato e... perché mi ha detto che era pericoloso il fumo, eccetera, eccetera. Se vuole evitare che vi vengano ictus, tutte queste cose, non fumi più. E così ho fatto. Io ne fumavo anche, quando andavo a pescare, anche 2 pacchetti me ne fumavo. Mi sono arrivato a 2 pacchetti. Quel tabacchino dove stavi tu, dove è estate, mi conosce bene. Per realtà, Wikibi, finivo il pacchetto, salivo lì, me ne prendevo un altro, torno a fumare. Tutta la notte pescando e fumando, facevo lanciare accendendomi la sigaretta. Guarda che già che io addirittura uscivo a mezzanotte a comprarmi le sigarette, se ne avevo 1 o 2, io stavo male, uscivo a comprare le sigarette, non so cos'è il vizio, per carità, ma me ne guarderei molto bene. E ti dico una cosa, da quando ho mollato, a tutt'oggi, se una persona che io non conosco mi dice un qualcosa, oppure ci parlo, io mi accorgo già che lui ha fumato, allora mi allontano perché mi fa schifo soltanto l'alito della sigaretta. Idem, anche a me la stessa cosa. E se avessi saputo di non avere più cantato la mattina, di stare bene come sto, non avrei più fumato già da tanto, e a voglia. E mica mi veniva la tentazione, mi fa passano tanti tabacchi, io ci vado. E una volta mi ha tentato, me ne ho fumato una, poi ho preso le sigarette, le ho tutte strappate, le ho tutte rotte, le ho buttate via. E da giorno non ho più toccato la sigaretta. Scusa Roberto, ti rilascio subito. Ma la cosa che mi è successo a me dopo non lo fumo più, ogni tanto mi sogno che mi accendo la sigaretta e mi sveglio di colpo, no, ma io non sto più fumando! Poi cavolo, un sogno è. Non sai quante volte mi succede? Ma vaffanculo la sigaretta, avanti Roberto. Meno male, io non ho mai avuto il vizio, dai, infatti quando vedo ragazzini per farsi vedere grandi, soprattutto le ragazze, adesso se tu noti il 90% delle ragazze, non dei ragazzi, ragazzi un po' meno, il 50% fumano, ve lo dico perché per questioni di contatti, di vederli, per questioni di sport lo noto di più, ma le ragazzine, diciamo, quando iniziano ad andare alle superiori, qualcuna magari alle medie, quelle ultime, quelle un po' più sveglie, dai, 16 anni, però le ragazzine di 14 anni che vanno alle superiori, il 90% fumano, non ce n'è, è più forte di loro, è un senso di coso, di, per me è una debolezza, è un senso per farsi sentire grandi, perché vedo poi delle ragazzine che passano qua davanti, le ho viste crescere e dico, cazzo, se c'avevo il muccio fino all'altro giorno, adesso lo fanno apposta per farsi vedere con la sigaretta. Addirittura la cosa che mi dà più senso quando vedo che si fanno vedere facendosi la sigaretta come senso di grandezza, io dico, vabbè che c'è un imbecille, che è un senso di coso, di insoddisfazione, di coso, di mancanza di autostima, cioè secondo me uno che fa le cose così, buh. E i cannoni? Guarda Roberto, sì, senza il break, Roberto, credo atto a partire, ci lavoro in tutte le scuole superiori e quindi sono da 22 anni che ci lavoro. Avanti break, a me non mi sento. Vabbè, lui non vuole entrare. Sì, è vero, si fanno così, poi queste ragazzini adesso a 11 anni, tipo Miceli, vedi, mamma mia, li vedo vicino a casa, al campo, c'è una piattetta lì, stanno seduti nel muretto, baciandosi, ma baciandosi forte, no, bacini così. Ah, il portogallo, il gallo c'è. Ma sarai tu, Tonino, mi sembra di rubido. No, negativo, no. Attenzione Portogallo, attento Portogallo, ascolti Sardegna Italia. Dipartimento 165 Nord Sardegna Italia. Ti scuccio mucho bien. Chi ti ha scucciato è da Puerto de Gallinas. Chi ti ha scucciato l'operatore Gianni Delta Romeo della città di Sassari. Ma la capiglia io. Attenzione canale 10 27 075. Meno raccomi. Fai da bravo. Cosa hai detto Riccardo? No, stavo facendo una chiamata, se c'era qualcuno, non stavo parlando a nessuno. No, stavo parlando un portoghese, stavo facendo un DX. Ah, scusate. Non c'è problema. Ciao Riccardo, mi hai sentito. Ciao Gianni, ciao Kawasaki, Fabio, mi sembra c'è ancora, Roberto e Lucas c'è ancora. Tony. Ciao Riccardo, mi hai sentito. Sei troppo sparato, mi spiri Gonzale proprio. Oh Tony, ti sento l'invidetto, ma fa così. No, sono attraiato, guarda, che mi sto carezzando i piedi. Ah, ecco perché si tivono da qua. Ma guarda, tu ci puoi mangiare la posa asciutta con i piedi miei, perché io prima di appoggiarmi al letto, guarda, innanzitutto entro in bagno e se non sono lavato non c'entro nel letto. Io mi cambio le lenzuola ogni due giorni, ricordo, e me ne lavo. Quindi sono abbastanza pulito, su quello non puoi dire niente. Ecco cos'è, se mi equivoco con Zola. Perché se mi capita qualche... a me non sei troppo fumo. Ecco cos'è, se mi equivoco con Zola. Cos'è, piccante o dolce? Non costa nulla, ragazzi. Ah sì, le fromage. L'inverno le cambio, l'inverno le cambio una volta al mese, l'estate una volta ogni tre mesi. Non contra. E chi ne vuole mutande ai quattro formaggi? Quella era rosa verde che ce l'aveva il balcone. Aspetta che vi racconto una Vai. Allora c'è questo tipo che ha messo un'osservazione, un'interrogazione su internet, ha detto come mai io quando faccio le puzzette, diciamo, dette in italiano, la puzzetta esce dal coso, dalle mutande, l'ubiaco, e come pretendiamo che il coronavirus non passi nella mascherina? Ecco, ah, che bella cosa, avanti, bella domanda, avanti prego. 5 Stelle, buonasera, buonasera Roberto, buonasera a tutta la ruota, qui è Chioda Ruginizzo da questa parte che vi super saluta, buonasera, riprendi Roberto. Chi è Catania in radio che c'ha Claudio alla grande, cioè ha avuto un miglioramento spaventoso, radio bellissima, forte e chiara. Ok, sei in compagnia mia di Marco, di Tonino Cavasacchi, Riccardino che è appena entrato, Gianni Doppio Room e Luca. Direi facciamo passare a Riccardino che è l'ultimo che è arrivato. Avanti Riccardino. Ok, ciao Claudio, ben ascoltato. Mamma mia, a casa tua non risponde mai nessuno. 5 celle tardissime perché c'è il telefono fuori uso a casa, proprio oggi infatti mi ero tutta la sera battagliando con questi della Vodafone perché ci hanno lasciato senza telefono, ci siamo già 3 giorni così che non funziona e infatti stiamo sempre sollecitandoli a riattaccarci il modem perché non fa neanche la DSL e hanno detto che c'è un guasto, però la vicina ce l'ha la linea internet, noi siamo gli unici nel vicinato diciamo che non sta andando, riprendi. Ho capito, no, perché ti stavo chiamando, infatti ci dai fuori servizio. Sì, QSL, prova a mandarmi qualcosa su WhatsApp al telefono di mio padre a vedere se la ricevo, perché non lo so se funziona, non so, con la connessione, perché la stiamo provando ma c'è sempre la luce rossa sul modem e non fa la spia internet, capito? E non possiamo connetterci, non funziona neanche il telefono, capito? Perché funziona tramite il modem anche quello. E abbiamo fatto un grosso sbaglio perché prima avevamo la linea TIM e da lì siamo passati alla Vodafone che ha iniziato a darci problemi da marzo, si riprendi Roberto. Non lo so, non della media in officina, siamo stati 15 giorni senza linea telefonica quando abbiamo fatto il salto a quella merda di Tiscali, cazzo, guai, non mi fate Tiscali, è stato tutto all'inizio, ma non mi piace dire parlare male delle persone o anche delle aziende, ma è una cosa allucinante, siamo passati a Vodafone, non è che sia assai meglio, diciamo, anche di lì ci hanno detto fibra, e aggiungo è più lenta della DSL, anzi aggiungo è più lenta della DSL, è una presa in giro grande, poi si rimpallavano uno con l'altro, la TIM che dava la colpa alla Vodafone, alla Tiscali perché non si poteva fare il passaggio, Vodafone a quella, e siamo stati 15 giorni senza linea telefonica, alla fine ci hanno dato un numero che doveva abbinarlo a un cellulare per avere il trasferimento di chiamata, una cosa del genere, ed è brutto me, c'è un'operazione, un'azienda che deve lavorare senza linea telefonica. Roba, sì, ma la sai cos'è, che sono anche dei grandi cafoni e maleducati questi, perché ero tutta la sera contattandoli dal numero del cellulare, no? E poi rispondevano, mi dicevano che non era un problema loro, questo, poi mi dicevano attendere in linea e mi chiudevano il telefono, guarda, una cosa proprio di maleducazione così proprio non l'ho mai vista, riprendi. Purtroppo sì, ci sono quelli del call center, se ne liberano le mani quando vedono conversazioni che c'è da parlare, dalle informazioni, tac, cade la linea, non dirlo a me. Ok, c'era qualcuno che voleva entrare avanti, chi voleva entrare, ogni tanto c'è qualcuno che fa portante. Ok, Tonino, domanda a Kawasaki, per quale motivo? Non ho capito, per quale motivo il nominativo Kawasaki, ci aveva moto? Yes, ciao, chiudo reggito. Ok, ben entrato. Sì, una bella moto ci avevo. L'ho venduta 5 volte, la stessa moto. Come dire l'ho venduta 5 volte? Io la vendevo, poi quella me la tornava, torna a rivu e me la tornava a me. Io la vedevo, lui me la tornava a me. Insomma, mi sono rotto le palle. Alla fine ho venduto un po' di giri e non mi ha più tornato, meno male. Ma che cavallo è che? 7,50. Ma te lo ricordi a Tarzan, conosciuto? A chi? A Tarzan, Giacomino. Di Source. No, Source le conosco poco. Ehi, cacchio, era sempre a Sassari, ha lavorato anche da noi in officina. E c'aveva la cosa, a due tempi era, il Kawasaki a due tempi. Dormì era 4 tempi, 4 valigie in uno, del DTRS. No. Aspetta, avete parlato in due, cosa ha detto già? Che faceva le gare con Giuntini alla scala di Ciocca. Era fuori di gabbo, com'è legava, mi voleva di un bene a me, tu vedi come mi trattava, era arrabbiato col mondo, quello lì ce l'aveva col mondo, c'era una persona arrabbiata, però a me chissà per quale motivo mi aveva preso in simpatia, chissà per cosa, quando mi trovava poi era una persona ma Gianni, quando Gioppina poi è caduto a Valle Unga è diventato Santicco, ci ha visto la voce in faccia. Aspetta, scusa un attimino, fai parlare a Tonino che non ho capito cosa hai detto. ho detto che quando Giobin poi è caduto a Roma a Valle Lunga, automaticamente si è visto la morte in faccia, è diventato santicco. Lo vedevo a Terengica dicendo il Vangelo. Sì, sì, è vero, ma io l'ho visto da poco, non proprio poco, dopo che è successo il fatto di leggere il Vangelo, eccetera, eccetera, stiamo parlando 7-8 anni fa, con una minimoto, lui vestito in abito elegante, era con chi sta la minimoto a Predaniede, vicino alla città mercato, me lo sono guardato, ma magari è Ghizzo, poi lo guardo, ha detto Giobin, dopo vi racconto, vabbè, forse l'ho già raccontato, un particolare di Giobin, ci conosciamo abbastanza bene. Conosco tutta la famiglia, Robè. Fratello Pierpaolo, Tullio è proprio pazzo, quando era come Zacchi, 500 quello verde tra marmizze, due tempi, era pazzo, scendeva in via La Marmora, quasi a Manetta, roba da macchi, se ne uscivo uno da un vicoletto si ammazzava. Sì, anche Gurutrano era macchi. Pure. Parava a Manettone, via Le Tre. Meno male ci sono dei figli che sono tranquilli. Ma i figli li conosce? Vicky di Giobin. Sì, peggio di Rubabbo. Adesso vabbè, sono da un po' che se non li vedo, ma tu non hai idea quante volte sono venuto a portare la moto disintegrata, da distrutte e strampate. Io so che il padre del baratto a Giobin, nessuno per comprarsi mobili, per sposarsi se l'ha comprato la moto. Questa non lo so, è una storia che dicono, però sinceramente non lo so. Io mi ricordo solo la storia, scusa Riccardo, dopo ti faccio riprendere, scusa anche Claudio. È venuto un giorno, siccome lui abitava vicino a me, vicino all'officina, c'aveva il Kawasaki 900 portato a 1300 con dei pezzi dal Giappone, direttamente dalla casa madre, avevano messo i pezzi del 1300. I carburatori di Giulia li avevano modificati, poi la marmita li aveva portati da noi, li avevamo svuotati, aperte e svuotate. Quando metteva in moto, che siamo in linea d'aria a 500 metri, lui dentro il garage, dove lui era l'officina mia, si sentiva il rumore di chissà cosa, sembrava quando c'è un elicottero, una cosa allucinante. Un giorno mi fa la mia compagna che devo andare a prendere la moto, che voglio salire giù alla scala di Gioca. Sono andato a prendere la moto, l'ho accompagnato, si è cagato, io sono la persona più tranquilla del mondo, in moto tranquillo, cammino piano, si è cagato sotto, no, c'ho paura, piano, c'è stato chiaramente a 10 all'ora. Saliamo su alla scala di Gioca col figlio, non mi ricordo se era dei due, qual era adesso dei figli, adesso non mi ricordo, era piccolino, ci avrà avuto 7 anni, e l'ho portato su, io me l'ho sostenuto dietro, il figlio di lui è salito con la moto, ha detto adesso faccio un giro, vediamo, poi ci siamo messi su, così mi giudichi e mi dici come sta andando, correndo quanti è un dannato, un pazzo da legare, arriva su e beh, Robert, come sono andato, ha detto tu sei pazzo, ho detto tu sei matto da legare, gli ho detto, ma mo di ricorrere, così ti fa rischi, cioè stai rischiando la vita, e il figlio no, ma puoi andare più forte, puoi andare ancora più forte, questo ragazzino che ha avuto 7 anni, buh. Ma questo quanti anni fa? E cacchio, stiamo parlando 30 anni buoni. Ah, perché la moto non penso che la porti più, adesso è diventato prete. No, forse sono pure di più di 3, cacchio, quanti anni sta parlando? Ero ragazzino, ci avrò avuto, no, cacchio 30 anni, facciamo quasi 40 anni, 40 anni fa. Allora, vabbè, io te ne racconto una, io andavo a Scala di Gioca a vederli correre, e una volta c'era Giobin e Tarzan, stavano correndo in moto, e c'erano tutti quanti i ragazzini seduti su guardia lì, non mi ricordo se era Giobin o Tarzan, era impennato. Questo ragazzo che stava scendendo in macchina se li ha visti davanti e praticamente stavano in pena, hanno aspettato per non prenderlo, ha toccato quella linea e hanno fatto tutti i ganti giusti. Meno male che c'è un materasso in vecchio roba del genere, ma sono tutti fratturati, un casino, poi se ne è scappato queste macchine. E abitavo vicino a casa, dice di telefonare gli avvocati tutti quanti, la stavano facendo diventare scemo, tutti fratturati, volevano soldi, uno voleva soldi, l'altro voleva soldi, 50.000 avvocati di telefonare al giorno. Allora non è successo così perché ero presente, non è successo proprio così, so anche chi è stato, ti faccio nome e cognome, io ero presente quando è successo. Oh, così mi ha raccontato lui, Torellino era, anche Torellino abitava vicino a casa mia. Sì, fiori stiamo parlando. Allora, io ero di fronte a dove è successo, perché ho visto tutto. Ce l'hai presente tu, il muro entrachita, è quello più alto di tutti che c'è, la scala di Gioca, che tu vedi la curva, il tornante, ti guardi da laggiù e vedi c'è a meno 20 metri di altezza. Ce l'avete presente tu? Sì. Allora, questi erano due ragazzi seduti su guardrail, seduti sul lato ascendente, cioè proprio la parte più sbagliata. Io mi sono messo dalla parte opposta dove c'è l'albero e loro si sono messi proprio nella curva. Questo qua c'era un 127 Fiat azzurrino metallizzato, è entrato talmente veloce in curva che ha suonato il guardrail, questi si sono cagati sotto e sono caduti di schiena lì dentro. Hanno fatto un salto all'indietro dalla schiena, quindi saranno almeno 20 metri di volo hanno fatto. Uno, vabbè, non si è fatto nuda, l'altro è caduto sopra, c'erano dei rami, cespugli, cose del genere, hanno tenuto la caduta, l'hanno attenuato, un pochettino la caduta. Non c'era John Pinna al giorno, non c'entra niente, c'era quest'altro tipo pazzo che li ha presi, sono scesi giù, li hanno recuperati un paio di persone, 3-4 persone, li hanno portati su, perché il primo non si è fatto niente, è caduto di fianco, non si è fatto nuda, non è neanche caduto giù, quello che è caduto nel fosso a 20 metri, quello lì l'hanno preso, l'hanno ricaricato, se non era morto di incidente, sicuramente qualche osso gli hanno rotto loro, l'hanno portato loro su, poi l'hanno caricato in un Alfa Romeo GT, ci sono partiti a 1000, l'hanno portato all'ospedale e poi non so più niente. Ma so che Torino ha passato un bel casino, e solo più, io abitava vicino a casa mia. C'è una battia a Scaligiotto, a Curvone Grande. E andava pure un fotografo a fare fotografia, che era anche un CP, non so se l'avete conosciuto, Stefano Serra, petto giallo. Comunque, cosa ne ha colpa quel Torricino? Non ne ha nessuna colpa, è entrato veloce, quelli si sono buttati loro, mica li ha toccati, gli è passato a un metro di distanza, a mezzo metro, però non li ha toccati. A me lui mi ha raccontato tutto, mi ha detto che praticamente è già impennato questa moto, adesso non mi ricordo chi era, però l'ha impennata, lui se l'ha vista davanti, ha stazzato per non prenderla e ha toccato il guardare e li ha buttati giù, così va detto e così ti sto dicendo. Questo l'ha raccontato da lui. Non ha toccato a nessuno, è passato molto vicino e quelli si sono cagati, e lui è entrato talmente veloce, ti garantisco, siccome ero di lì a pochi metri, talmente era veloce, le ruote, i cerchioni stavano toccando, si sono piegate le ruote, talmente è entrato veloce, non è riuscito a controllare la macchina per non sbattersi a guardare, lui ha tutto sterzato, con la moto era Maria all'altro lato, non c'entrava niente, perché la moto era in senso, lui stava scendendo, non salendo, ricordiamoci, per cui mi pare una fesseria questo fatto qua. Lui stava scendendo, è entrato troppo veloce per non sbattersi a guardare e ha sterzato tutto quanto, i cerchioni hanno fatto le scintille, il bordo del cerchione del 127, immaginati a che velocità è entrato lui. È entrato da bandiera, c'è da scalare. No, ma la moto non c'entra niente, lui era nel lato opposto, gliene stava andando fuori la macchina, non riusciva a tenere, allora ha sterzato tutto i copertoni, le spalle del copertone si è deformate, ha toccato il cerchione, talmente è entrato veloce, non la sapeva portare la macchina, lui è entrato a fare lo splendido e non è riuscito a tenerla, perché è entrato più veloce di quanto poteva entrare, le moto non c'entrano niente, lui è entrato sbagliato, ha sbagliato la curva. Non lo so se lui a me mi abbia detto male, ma me l'ha raccontato lui a me, te lo giuro, che stava passando un po' di casini, perché c'era proprio gli avvocati uno dell'altro, ma detto che alla fine non rispondeva più al telefono perché lo stavano assillando. E insomma, se l'ha vista, ti posso dire anche dove lavorava, ti posso dire dove abitava, non c'è problema, lo conosco benissimo, conosco il fratello, conosco tutto. Sì, era il cugino di una persona che lavorava da me, c'ha lo stesso nome e cognome suo, identico, lavorava, ti posso dire dove lavorava, però lui secondo me non se ne è neanche reso conto che quelli ne sono caduti giù, perché se ne è andato e non si sa niente, forse non se ne è neanche accorto e gliel'hanno detto secondo me, perché lui è entrato, lui si è cagato perché ne è uscita la macchina, e quelli dallo spavento si sono buttati giù, uno è riuscito a tenersi, l'altro ci è caduto giù, proprio di schiena, a me non è dire cadere di punta, e noi con la gente anche tutti scioccati. Ah, è morto, poi l'hanno portato su e stranamente non è morto per il volo che ha fatto. E c'è che l'ha tutto, ci spugli, la terra si vecchia che c'erano. E dopo in coma, l'ho visto con due volte facendo lo scema giù di da lì. Ci avevamo messi 3-1, lui e Tarda, tutti e due, ci avevamo messi 3-1, i 4-1, cioè. E praticamente c'era un altro gruncino. Riprendo io, buonasera, Capasati, bentornato dalla spazzata in radio. Ciao a tutti, comunque qui posso aggiungere anche io, perché io dalla Spagna. Colpa tua già. Sì, è stata in mano mia la moto, la Ducati ce l'avevo io, l'avevo lui intanto Gianni montata la per rimessa sul bresciano via nel 2011. Un attimino sto parlando, era tinta roba color menenzale, poi c'era un altro fatto che aveva fatto una gara la Volante 750 comunque a posto e tre cilindri con la volata via subito e ti stavo dicendo e c'era quest'altro riusino roba che ci aveva una Lambert da 750, si chiamava Manconi, conosciuto l'aereo per quello. Guarda, il cognome non mi dice niente, però li conoscevo tutti perché noi tutte le domeniche andavamo di lì a vedere le gare, ma c'era anche la Fontaine, c'era Francolino Meloni, lì ne erano niente, tutti di lì, però quelli erano più attenti guidando, sapevano correre, sapevano i limiti, mentre Gioppina non ne aveva di limiti, lui era un kamikaze, così i figli. Chi è che stava parlando sotto quando parlava Coso? Gianni, avanti, c'era qualcuno? Avanti Riccardo. No, niente, stavo chiedendo una cosa a Gianni, scusate, colpa mia. Allora tu Riccardo, però ti ha passato, mi dispiace, il radio era troppo potente. C'era la radio, la paura, Gianni. Ma qua non l'ha passato, qua è passato Riccardo. Comunque anche io me ne ho fatte le battaglie, ho avuto un sacco di ucati scambler, hai capito? Franco Meloni ce l'aveva precisa la mia, la ucati scambler aveva, poi... Catalogo. Sono gli scambri, ne avevo due o tre, la fatta perché compravo 100.000 lire l'uno, poi ho iniziato a prendere perché era il bomb delle cose, ho iniziato un attimino, lasciate parlare fatto, anche le attrezzature specifiche l'uomo del Pao mi ha parlato e lui non le faceva più, avevo tutto quanto e così John Pina è stato un periodo bello e poi c'era quest'altro robe, c'era un Norton comando 750 a Sassari, mai visto più uno e io allora frequentavo il biciclo perché sono via da Sassari, una Norton comando 750 c'era, riprendi? Un attimo, Roberto. Sì, scusa, lei era, dai, avanti di Tony. Ma io mi ricordo Gioppina quando c'era la scuola di gioco aveva un Kawasaki 900. Kawasaki 900 portato a 1300 con lo scambio, io sinceramente a Gioppina non l'ho mai visto, mai gli avranno prestato, lui c'aveva il Kawasaki 900 portato a 1300. Franco Lume Meloni ultimamente usava il Suzuki GSX, poi la Fontece aveva l'R1 della come cacchio si chiama? Quello carenato, come si chiamava? Adesso me lo ricordo, R1 mi sembra, della Kawasaki. E io mi ricordo che anche era un ragazzo che vai, era giallo e nero sulla base del rap. Gianni, hai le fontane di Fordo Fiesta? Fontane? Per il fondo delle cose. Non ho capito già. Roberto, comunque non avevano che c'è il fondo delle cose. Marchi 3. Dopo è capitato in mano mia, questa moto l'aveva data, era di un avvocato, era. Tutto l'altro dei diritti. Cattava. Che ne era accaduto a carica al passaggio a livello, capito hai? Non lo so, non l'ho conosciuto, io con la Ermacchi, vabbè Ermacchi e Ducati è la stessa cosa, lo facevano, lo scambio lo faceva anche la Ducati su licenza Harley Davidson eccetera eccetera. Quello di Tarzan era un tricilindri a due tempi Kawasaki, 3-1, mentre quello di Gioppina c'aveva il 4-1, Parmitanera c'è tutta in ferraglia fatta aperta, le abbiamo fatta noi un sacco di volte, a scarico libero faceva un rumore da paura, mentre Francolino Meloni usavano i Suzuki. Che moto c'era la Fontaine? Era quella moto bellina, tutta carenata, è stata una delle prime moto, la più spettacolare come linea, forse si chiamava Z1, Kawasaki, Z1000 si chiamava. Okay. Lo ricordate, Tony, Z1000, te lo ricordo. Ma quanti anni c'hai tu, Robè, scusa? Io sono vecchiotto, 5 senior. Sei vecchiotto. E io se devo dire ragazzi 66. Ma noi da ragazzini si andava, vabbè abito vicino, si andava sempre di lì. Poi c'era il campo delle Cornacchie, non so se qualcuno di voi l'ha conosciuto. Chi l'ha conosciuto il campo delle Cornacchie vicino dietro ai militari per fare motocross? Io l'ho conosciuto. Ci andava anche a Marco Petretto. Tutti anni avevo una squadra. E da vari anni in Viale Umberto a una parte avevo visto quel Kawasaki di Giumpina che aveva le pantane, gli aveva messo i curatori dell'Alfa Romeo sotto, li prendi? Aspetta, scusate, mi interrompo un attimino io da Mariani Ci lavorava anche Giaguaro, che è diventato CB poi, nonché Batterino Gabbeccia, che lavorava lì, e aveva preparato una Vespa 50, tagliato gli scudi, ci ha messo un motore GS-135, me l'ha venduto a me per 15.000 lire. E io, come lo scemo, ce ne andavo in giro, me l'ho fermato in Falcone, le biciclette, cioè, questa volta è truccata, ma non si è truccata la 50, ma c'è una ventola che pare che un aereo. Comunque me l'avevo sequestrata, mi hanno denunciato, sono andato in tribunale e il giudice, cioè ho portato i testimoni che la moto non l'ha fatta io giustamente, e il giudice mi ricorda che ha detto: allora se lei vuole la moto deve pagare non so quanto e più ci fa 15 giorni di arresto, se invece non gli interessa la moto lei rimane sequestrata e lei paga soltanto 5.000 lire di multa e basta. Ho detto: tenetemi la moto. Posso? Sì. Allora, io ho avuto il piacere, o il dispiacere perché mi ha fatto male, nel deposito dove c'erano tutte le moto sequestrate di Sassari, e non dico il posto perché non mi va di dirlo, c'erano non meno di 3.000 vespe, non una, più di 3.000 vespe c'erano, oltre altre moto, però la cosa principale erano le vespe. Poi queste vespe la maggior parte le ha prese Marcello e Gusmino, le hanno tutte schiacciate, tra cui c'erano la 90 SS, c'erano 5 90 SS, che è una moto che c'ha una quotazione di mercato di non meno di 15.000 euro, poi se la metti come deve essere fatta, diciamo fatta perfettamente, vale molto di più, la moto più quotata in assoluto, perché ne hanno fatto pochissime, tra l'altro non so se l'avete mai vista, io ne ho fatto un paio di quelle moto di lì, e sono una cosa allucinante, ne hanno portato via, non si sa chi le abbia toccate, perché sono andate a riprenderle per schiacciarle, sono tornate a pigliarle e non c'erano più queste 590 SS, che è una moto tutta particolare, non so se qualcuno ha avuto il piacere di vederla, di cosa sto parlando. Io l'ho anche guidato, c'è quel manubrietto piccolo e camminava pure un bel. Il periodo che le ho guidate, c'era conosco mia moglie lì, però non me l'ho un salone, a casa sua lavorava, a casa sua perché l'amica già lo sento per ancora, io ho comprato l'Alfa da lui e poi aveva pigliato a mia moglie a lavorare, le ho viste Roberto. Roberto. Sì, però attenzione già, non confondiamo la 90, Vespa 90 con la 90 SS. La 90 SS è quella che c'è una specie di serbatoietto tra lo scudo e la sella. C'ha il telaio ristretto più corto e in Italia ne hanno fatto talmente poche perché non la prendeva nessuno, si prendevano 125 Primavera, perché costava più del 125 Primavera. Era una versione speciale Super Sprint della Piaggio e ne sono rimaste talmente poco. Ci sono una marea di cloni che ne ho fatto anche uno di clone, che tu la vedi, sembra quella lì con tutte le particolari, però non c'ha niente a vedere con la 90 SS, solo una ce n'è vera che ho visto di tutte quelle che ho visto, le altre sono tutte imitate. Sì, la 90 SS l'ho conosciuta, l'ho anche guidata, ce l'aveva un amico mio, ce l'aveva il manubrietto più piccolo della specie. E a nome lo conosceva da ragazzino. Se vuoi veloce, via il microfono. Con la moglie, capito, adesso mi do il cattava con delle vespe e basta. Tonio un attimo, non sta parlando, dai, scusa per se ti ho interrotto. No, di chi stiamo parlando? Capite Luigi. E ho visto anche queste moto e io ce l'ho la vespa, hai capito? Infatti stavo per chiuderle in pezzi, ma me ne l'ho guardato bene perché sapevo che la roba era sotto sequestro, le prendi. Sì, vai Tony, scusa che se ti ho interrotto, avanti. Io ho avuto una moto, voglio vedere se tutta la ricordo, l'hai conosciuta. Io personalmente ho avuto la Lambretta con gli scudi tagliati, elaborata, carburatore 26, elaborazione Fontana. Sì, sì, già con Fontana facciamo le elaborazioni. Allora, io vabbè di moto, forse perché sono nel campo, già me ne intendo abbastanza e ho visto anche delle gare. Avevano fatto la gara, uno l'avete nominato voi, di quei personaggi famosi di meccanici di moto, uno dei più conosciuti a Sassari, e poi un'altra famiglia che abitava vicino a dove abitava Gianni, che sicuramente conosce, dove Giulio ci aveva la cosa, Giulio Dollaro ci aveva la falegnameria, avevano fatto la gara, uno aveva modificato la lambretta e l'altro aveva fatto con la piaggia, avevano fatto la gara e se andava al chilometro dovevi fare andata e ritorno, ci hanno giocato le moto, poi è finita in parità perché all'andata ha vinto uno in discesa e al ritorno ha vinto l'altro. Questa moto, questa lambretta, che se la vedete vi spaventate, non c'ha niente a che vedere con la lambretta, è una moto da record, diciamo, con le particolari, il massimo elaborazione, scarico libero, eccetera eccetera, si trova ancora quella lì. Oh, ma chi? Come? Sta girando o no? No, ma come fa a girare? È una cosa, se c'ha lo scarico libero, a tromboncino, fa un rumore assurdo, mette moto a spinta, non ha, c'ha una coppia talmente coso, esagerata, non c'ha né piedi né, è stata tutta modificata, il massimo dell'elaborazione che si poteva fare, tutti i carter, i pistoni, alleggerimento di biele, di tutto possibile, immagina, abbiamo fatto una gara contro Mariani, che Mariani, che io ho la fotografia di quella moto lì, carenata, eccetera eccetera, quella di Mariani, ma l'altra, signor Mario, che con me siamo amicissimi, di più pure, come si chiama, hanno fatto la gara, però le gare si fanno, si facevano, adesso non lo so, è andata e ritorno, perché uno dice in discesa sei più veloce, due, a chi va in rapporti più lunghi, e in salita ti batto io perché ce l'ho un po' più e hanno pareggiato, perché si hanno giocato il libretto, una scommessa e dei soldi pure, una cifra per l'epoca importante, e per cui infatti, siccome conosco tutte e due le persone benissimo, quelli che hanno gareggiato, non che ha gareggiato, quello che ha costruito le moto, perché non hanno gareggiato loro, so tutto, e quella moto lì è ancora in un magazzino, solo anche dov'è e chi ce l'ha, quello che l'ha costruita ce l'ha, e nell'insegna, è un'insegna fatta da lui all'interno dell'officina, c'è proprio la fotografia, il disegno, il riprodotto di quella moto lambretta.